Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di efficienza energetica nelle industrie, a partire da uno studio. Questo studio è stato realizzato da Ecofis, grande compagnia diciamo di consulenza, ed è stato commissionato da EIIF, che è la European Industrial Insulation Foundation, quindi la fondazione europea che riunisce diciamo così i produttori di materiali isolanti. E questo studio è stato mirato a valutare il potenziale di risparmio energetico nell'industria legato all'isolamento termico di apparecchiature e impianti industriali, e da questo studio sono usciti dei numeri che io definirei come minimo sorprendenti. Ne parliamo con Lorenzo Borsini, che è presidente di ANICTA, ovvero l'Associazione Nazionale degli Imprenditori che si occupano di coibentazione termica e acustica. Buonasera Borsini. Buonasera, una piccola precisazione. Prego. La IEF è una foundation che rappresenta non solo i produttori di materiali isolanti nelle applicazioni industriali, ma anche gli installatori, che benissimo, è stato un membro fondante. In effetti anche noi ci siamo stupiti. Ecco, perché partiamo dai numeri, io direi, no? Che sono veramente pazzeschi. Sono veramente pazzeschi. Investendo nel miglioramento della coibentazione 90 milioni di euro iniziale, poi spiegheremo, si hanno dei benefici immediati di risparmio energetico di 500 milioni euro anno. Allora, stiamo parlando dell'Italia, questo non è il numero che riguarda l'Europa, che adesso diremo anche qual è. Parliamo dell'Italia, quindi lei dice investiamo 90 milioni in questi interventi, che adesso spieghiamo che cosa sono. Esatto. E entro la fine dell'anno, immaginiamo di farlo a gennaio, entro il 31 di dicembre ne abbiamo risparmiati 500. Di che interventi stiamo parlando? Ecco, ma ce lo spieghi. Sono interventi semplicissimi. Ci sono parti di impianto, quali valvole, flange, che sono negli anni trascurate per motivi operativi, isolando solo quelle parti su tutti gli impianti principali, sia di produzione di energia che di processo, parliamo di raffinerie, impianti chimici, impianti alimentari, si possono realizzare questi risparmi. Ecco, perché viene da pensare, quando uno parla di efficienza energetica, gli viene da dire mettiamo il cappotto, come si dice, il capannone. Non è di questo che stiamo parlando, magari stiamo parlando invece di mettere dell'isolante su un tubo che trasporta fluido bollente. Trasporta vapore o liquidi di processo, gas, eccetera, tutti in temperatura. Esattamente il meccanismo è uguale al meccanismo virtuoso di quando si sono isolate le case o il tetto. Qui si tratta di isolare parti di impianto che per vari motivi non sono stati isolati negli anni. E diciamo lo studio lì a livello europeo indicavano 900 milioni in investimento a livello europeo contro 3 miliardi e mezzo di risparmio già conseguiti nel primo anno. In Italia va ancora meglio, ma comunque un numero straordinario. Dipende dall'investimento. E infatti dipende probabilmente da quanto si è messi già bene oppure male in partenza. Senta, ma uno dice, qui abbiamo delle imprese, e lo scopo delle imprese è fare utili. Com'è possibile che non intervengano su attività di questo genere che hanno un rapporto costi-benefici 1 a 6? È un fatto culturale. I nostri impianti sono nati nel passato quando i parametri del costo dell'energia erano molto bassi. Nel tempo non sono state fatte delle modifiche, degli studi aggiuntivi, e per cui si è continuato a isolare con dei criteri che sono ormai sorpassati. Oggi il costo dell'energia e soprattutto la conseguente emissione di gas di serra rende tutto questo investimento molto interessante, perché sottesa a questo intervento c'è anche l'enorme risparmio di emissioni di CO2 che questi tipi di interventi ci permetterebbero di risparmiare, quasi 4-5 milioni di tonnellate di CO2, 4 milioni e mezzo di tonnellate di CO2 all'anno. Sono le emissioni di 2 milioni circa di vetture per una percorrenza media annua di 12.500 km, tanto per dare l'ordine di grandezza. Qualcosa sul quale forse non serve nemmeno mettere incentivi, a parte che ci sono, perché qui si possono chiedere i certificati bianchi, per esempio, ma per dire che poi a volte no, noi ci inventiamo chissà quali sistemi di incentivazione e non vediamo che ci sono delle cose che assolutamente andrebbero fatte, incentivi o non incentivi, e che producono benefici per tutti in questo settore. Hai centrato il problema. Non solo si risparmia energia e si riducono le emissioni, ma un meccanismo di applicazione di certificati bianchi andrebbe ad aggiungersi al beneficio primario. Grazie Borsini. Grazie a lei e buonasera. È tutto, a domani.